sono più favorevole ai sistemi molto molto semplici, molto molto elementari, perché quando fai queste cose, centraline codificate, trick e track vari e così via, ti esponi sempre comunque a delle cose note. Se invece ti autocostruisci un antifurto, come avevo fatto io all'epoca, che è un fuoriserie, che non ce l'ha nessuno, praticamente colui si trova in situazione di svantaggio perché non sa cosa è installato nella macchina. Può essere la pressione del corpo sul sedile che manda istantaneamente un allarme, o ti chiude addirittura le porte e non saprò più, tipo mina, insomma possono essere tante cose. Oppure può essere anche un red che ha contatto con una calamita, aziona il sistema di avviamento e tutte quelle belle cose lì, e anche quello sarebbe invisibile perché è una cosa talmente piccola, e tra l'altro non dà onde radio. Insomma, dei sistemi ce ne sono tanti, solo che devono essere per forza autocostruiti, ecco. Sì, ha detto bene, ma la fatto vedere un programma le Iene, ha detto tu per fregare il ladro, naturalmente non vanno a rubare l'appunto, come metto io, vanno a rubare macchine di un certo pregio, devi mettere due o tre di antifurto, gli devi far perdere tempo, perché dice di inviolabile non c'è niente, però se loro perdono tempo non devono stare oltre i 30 secondi per mettere in moto la macchina, se superano i 30 secondi stanno rischiando che li beccano, per cui ha consigliato, detto dal ladro, un ladro professionista, che questo esce con la valigetta 24 ore, proprio elegante, nel senso per non dare del lucro, e lui dice io apro qualunque, ma l'unica cosa quando inizia a mettere due o tre sistemi diversi, lì mi fermo perché ci abbiamo dei tempi limiti noi per entrare per aprire la macchina, se superiamo quei limiti lui dice e io consiglio di utilizzare diversi sistemi, non uno solo, in modo che non te la portiamo via la macchina. Sì, basta mettere un interruttore in un posto nascosto che non lo trovi, niente antifurto né nulla, solo che in moto la macchina non mette mai un carro attrezzi e viene bigliato a furati in mira. E c'è anche quello. Ma per la cosa è successo? Scusate Monopolio, Gianfra e gli altri. A vedere l'applicazione ed è la marca del mio diciamo rilevatore satellitare è AITA e c'è l'applicazione scaricabile. Allora, a proposito del caratteri, dai, stavo parlando, io forse ho parlato sopra, vi racconto la furia. Ah, sì. Allora, quello vicino a me c'è una macchina molto molto particolare, in Italia ce ne sono solo due della Mercedes, una in Italia e l'altra a San Marino, la versione la L, la limousine, adesso vabbè, ormai ne hanno fatto anche altri modelli, quando è uscita lui ce l'avrà 4-5 anni questa macchina, forse 4 anni, c'ha tutto, era la macchina più tecnologica al mondo, c'ha questo sistema, a parte tutto quello che c'è dentro la macchina, non ne parliamo, l'altro giorno, quando è, questi l'inverno scorso, lui ha parcheggiato vicino a dove lavoro io, e gli arriva il messaggio col GPS, era il carro attrezzi del comune, li stavano portando via la macchina si è messa a parlare, perché la macchina, questa macchina parla, c'ha un sacco di funzioni, tramite l'impianto della macchina, detto, attenzione, state commettendo un reato, in base all'articolo, tutto l'articolo, i carro attrezzi si sono cagati sotto, perché la macchina è tra l'altro 4 ruote motrici, non è che la puoi agganciare così, se no spacchi tutto. E lui è arrivato subito l'immagine, perché c'è la telecamera, che stavano facendo questa operazione, è andato correndo, quindi si sono cagati sotto, alla fine non gli hanno spostato la macchina, perché si avrebbero dovuto pagare anche i danni. Lo immagino, se gli avessero spaccato qualcosa, pagavano profumati quattrini sicuramente. Vabbè. Ma la cosa bella di questa macchina, io non ho visto una macchina con la 220 dentro, originale, c'ha la 220, a parte i televisori, c'aveva Sky, c'aveva tutti gli ammonamenti, Netflix, tutto di serie c'aveva, i sedili che ti fanno i massaggi, il cruscotto, vabbè non parliamo del cruscotto, quello è fantascienza, il parabrezza non ha le pareti, le alette parasole, qua si lavano le parabrezza e si oscura il parabrezza per il sole, poi c'ha tutti i sistemi sorpasso, per esempio tu li passi davanti a piedi, l'ha fatto l'altro giorno mio fratello, lo scherzo, lui era distratto, gli si è buttato davanti, la macchina gli si è inchiodata, c'ha riconoscimento pedoni, riconoscimento distanza, se c'è una macchina troppo vicino e stai camminando troppo ti rallenta la macchina e non ti fa solo accelerare, oppure se devi fare un sorpasso e c'è l'angolo morto che non vedi ti blocca lo stesso e non ti fa entrare, cose di fantascienza. Io l'ho provata, mi sono seduto, sono andato a un ristrano e ti posso dire, non ho mai visto macchine del genere. Sì, è possibile, basta collegare un inverter potente che da da 12 volt si trasforma in 220 e puoi alimentare un sacco di un televisore, un decoder, qualsiasi cosa. Sì, ma questo c'era di serie, io sto parlando del serie di dietro, tu apri, c'è la 12 volt classica espressa USB e qui c'è la 220. Non l'avevo mai vista una macchina originale con la 220. C'è Claudio che sta sfasciando da tutti, avanti Claudio. Non ho letto dire quanto costa però quella macchina di Marcello. E tu già lo sai, a parte è firmata pure con la macchina, ne hanno fatto ben poche, costava, allora stiamo parlando 4-5 anni fa, pagata 140.000. C'ha un sistema di climatizzatore a quattro zone, c'ha un gas, è l'unica macchina al mondo che aveva fatto con quel gas lì, era rifermato l'estate, lì si è sfasciato l'impianto perché funzionava anidride carbonica, invece che usare il gas normale, l'unica macchina che lo usava solo a livelli aeronautici quel sistema lì, e si è fermato l'impianto di climatizzazione, una macchina del genere senza aria condizionata, e nessuno aveva il sistema di farlo, solo a Roma l'importatore ufficiale della Mercedes ce l'aveva, doveva spedirla a Roma, poi hanno dovuto acquistare il macchinario qua a Sassari, gliel'hanno preso, gliel'hanno fatto e poi si devono sfasciare, un giorno l'è rimasta bloccata, non camminava più senza motivo, così. Avanti Gianfra. Sì, no, quello dei 220 volt ce l'hanno piazzato ad esempio a tutte le ambulanze, tutti i mezzi particolari, è un semplice inverter, non è niente di particolare, ecco. Ci sono di tante potenze, io ce l'ho credo che sia da 1000 watt, solo che devi tenere molto acceso perché ti scarica la batteria. Lo stesso anche il radar, io ho l'altra macchina che ce l'ha inserito, ma mi hanno detto di stare attento perché si deve utilizzare solo con le cinture, perché se ti passa qualche cane davanti eccetera, sì, la macchina frena, però tu ci esci fuori dal finestrino, cioè dal cruscotto, ma dal vetro, dai. Sì, assolutamente, no, il vetro naturalmente ce l'ho anche io nel camper, è normale, però io non avevo mai visto una macchina di serie, parliamo, non su camion, cose del genere, mezzi speciali sì, ma di serie, in una macchina di inverter a 220, soprattutto nel sedile di dietro, apri la console, siccome ha quattro posti questa macchina, apri dietro e c'è la presa a 220, a parte c'ha due televisori nel coso, nei sedili posteriori, c'aveva l'abbonamento a Sky e a coso, l'altro a Amazon, no, come si chiama quello, Netflix, tutto di serie, in questa macchina c'aveva tutto. Ok, facciamo venire avanti un attimino a Claudio per salutare, poi c'è Antonio e Carlo. No, vi sto ascoltando, fate pure, ciao anche Antonio, ciao a Gianfranco, ciao a Carlo, a chiunque fosse su 10. Proseguite, avanti Antonio, prendi. Ciao Tony, Claudio, ben ascoltato. Pensavo che non mi ascoltavi. Certo che ti ascolto. Già mi ascolti allora. Vai Carlo. Sì, salutoni Claudio. C'è Natalino Alfa 1, avanti Natalino. Vai Natalino. Natalino. Stai modulando Carlo. Carlo, ti ha chiamato Antonio, hai sentito? Antonio, sì, scusa che mi ero sentivo ma ero lontano. Io da zona Luna e Sole Alto, più o meno altezza del bullying. Sì, me l'avevi detto, è vero. Sono io un po' rincoglionito, sì, me l'avevi detto. Nessun problema Antonio, e anche io ho ripreso da poco, quindi ogni tanto un po' di confusione è naturale, pian piano poi già si impara tutto. Cioè, come la mia è l'antenna, la Ringo c'hai, mi pare, vero? Ho una SD Sirio, una SD 27 e un dipolo. No, già va bene, già va abbastanza bene. E siccome da Roberto gli arrivi fortissimo. Ok, avanti Roberto. Sì, vabbè, siamo vicini, non è confrontabile con nessuno, c'ha il segnale più forte lui. Ok, facciamo avanti a Gianfranco. Natalino è scomparso, comunque stanno venendo, si sta di nuovo ripopolando il 10, forse è brutto tempo, non lo so. Il nuovo è Carlo, poi c'è sentito Daniele, c'era cosa, Antonello Barracuda, Mirko, l'altro Mario di Portotto, diciamo qualcuno in più sta entrando sul 10. Vai Gianfranco. Ma veramente Antonello Barracuda? coda da voce. Sì, ha cambiato casa, si ha messo un dipolo, già arriva a me, vabbè, qua arriva forte perché siamo vicini, ma è riuscito a farsi ascoltare da tutti perché era all'inizio lo sentivo solo io, gli altri non lo sentivo. E allora quando era che lo sento lo saluto. Come arriva? No, stavamo parlando stasera. Sì, vabbè, tu già siamo di fronte, non c'è, io parlo di giù, quelli di giù erano in difficoltà. Non lo so se arriva qua, non lo so. Non l'ho sentito, quindi non lo so. Sì, già lo senti, ha sentito Giulio pure, e Tino l'hanno ascoltato, per cui lo tiri fuori anche tu, non c'è problema. Cosa volevo dire? Sara, ci sei ancora? Sì, ciao Claudio, ciao anche a tutti gli altri che sono entrati. No, stavo guardando le caratteristiche della SIM e volevo chiedere a Carlo se quella da 15 euro, quella che fa GPRS e compagnia cantante, su Amazon, confermi che è quella? Bianco per me. Sì, è quella lì, praticamente c'ha qualcosina di traffico prepagato all'inizio, però facendo un po' di prove si consuma subito se usi, ripeto, gli SMS, però dovrebbe essere quella. Things Mobile, tanto c'è solo quella, su Amazon vende solo quelle, non credo che ci sia altra roba. No, perché ne ho viste tante, c'è anche quella specifica per GPS, c'è quella specifica per i termostati e così via cantando. Tutto lì era per quello che te lo volevo chiedere. Io ho perduto il conto, a che tocca adesso Roberto? Che buono, lo so, va bene, per me, ridammi il codice esatto di questa scheda, che interessa anche a me questa situazione, Carlo, fammi lo spilling. Aspetta che rientro, perché io me la sono salvata e quindi devo rivedere, così ti dico bene le caratteristiche, un attimo di pazienza. Te la do io, ce l'ho qua davanti, Tango, Hotel, India, November, Golf, Sierra, Mobile. Fai quella ricerca su Amazon, le trovi tutte quante. Things Mobile, così. Cosa volevo dire? Ma c'è la dimensione di una micro SIM, nano SIM, com'è questo? Tutti i formati. Ti confermo, tutti i formati sono perforati, per cui uno in base al formato che utilizza la può adattare tranquillamente. Si chiamano schede dati queste. Esatto, SIM card, schede dati, Things Mobile. Multioperatore. Questo fa il roaming con gli operatori, cioè non è una catena soltanto. Assolutamente no, si appoggia a tutti gli operatori, Vodafone, TIM quando glielo permettono, Iliad, Wind, tutti quanti. Con TIM hanno detto che c'erano dei problemi però ultimamente, ma deve essere cosa di contratto, capito? Però si appoggia a tutto, quindi la copertura dovrebbe essere totale, dove c'è una cella lei si aggancia. Questo è interessante perché dobbiamo fare un'operazione giù in un terreno nostro che di lì stanno entrando i simpaticoni ogni tanto a fare danno. Sì, e installando una telecamera funziona e riprende, si fa vedere, ovviamente poi se i video sono di poco ingombro magari il consumo non è neanche elevato, almeno credo che sia così. Ti posso rispondere io, purtroppo non è così, purtroppo. Vabbè, se metti un interruttore di movimento, un sensore di movimento, funziona solo nel momento in cui c'è le frazioni. Esatto, tipo le fototrappole, quelle per gli animali, praticamente fanno un mini video, quindi non è in continuo la ripresa, scatta all'istante quando la persona, l'animale è davanti e c'è una sorta di infrarosso, per cui lo riprende e passa, poi chiude dopo, penso sia regolata da un timer, qualcosa del genere. Ma dove non c'hai, se no mettete una scheda normale, TIM, Vodafone, ma quelle, ecco, te ne mangiano tutto. Sì, esatto, quelle costano troppo. Infatti è il problema che ti dicevo io, perché consumano molti dati. Facendo foto invece conviene, perché la foto può essere di formato di 2 mega, la più piccola. Ma non sono compressi questi dati a bassa definizione, Gianfranco? Lo so, ma la compressione è fino a un certo punto. Poi dipende da che compressione usano. Per il video c'è la 265 e più, credo, se non ricordo male, che ha un'enorme compressione. Però le telecamere che ho io in macchina, ad esempio, che sono due, dopo 10 minuti stiamo parlando già di oltre un giga, eh? Sì, non è male. Questa cosa l'ho vista, la fanno anche per gli animali, non so se l'avete vista, mi sono messo a ridere da fusare l'anno scorso, sono andato, questa qua si stava lamentando, c'aveva un gatto, e gli ha messo a collare questo sistema di coso, di ricerca, di posizionamento, dai. E dice non funziona, lei pretendeva che gli diceva la posizione millimetrica del gatto, tanto guarda il gatto di lì, di fronte a fusare, c'è la salva lì, quanti metri sono? 10 metri, 15 metri, il gatto era di lì, no, io non voglio che mi dica che è lì, proprio qua, a fianco a me, che cacchio fai ad avere una precisione così alta, con un giocattolino? Sì, la posizione magari si può dare anche 10 metri, 20 metri, no? Non è millimetrica, se no sarebbe troppo facile. Sì, ma la ditta diceva entro 30 metri ti dava la precisione, cioè ti avvisava entro 30 metri, dice, la macchina, l'animale, o quello che è entro 30 metri, non ti basta trovare un animale nel raggio di 30 metri, no, lei lo voleva a fianco, mi deve dire che qua questo affare non funziona, alla fine gliel'ha ritirato Fusari. Troppe pretese la signora aveva. Cosa deve mandare? Missili intercontinentali comandati a coso, a raggio laser. Io, buonasera. Infatti, Gianfranco, se vuoi riprendere tu, io un attimino sto facendo una piccola operazione. C'è una bussata sotto, vediamo se viene avanti, buonasera, avanti su 10. Io. Ciao Roger, buonasera, in compagnia mia di Callo, Gianfranco, Claudio e Antonio che si è allontanato, ti rilancio di nuovo a Claudio, che era in parcheggio, avanti Claudio, giulla, Gianfranco. Sì, ciao Eugenio, buonasera. Riprendi Carlo. Io purtroppo non lo sento, non ho sentito niente, né bussata né nel vocale. Lui, che vedete, da Eugenio sta arrivando a Porto Torres, magari con quell'antenna che c'è tu non riesci a tirarlo fuori perché non è molto, cioè tu sei in orizzontale e lui è verticale. Comunque non so se l'hai ascoltato tu, Eugenio, a Carlo. Negativo, non ho sentito nessuno. Ciao Gianfranco. Claudio, la vedo, mi sa tanto, due Claudi ci sono. Vabbè, buonasera a tutti. No, quello l'altro non lo ascolterò bene. Diciamo nella mia zona, già qua già arriva forte. C'ha un'antenna, un dipolo sta utilizzando. Carlo, è uno nuovo arrivato da poco tempo, c'è in frequenza. Stiamo parlando un po' di questi sistemi di localizzazione per i mezzi, videosorveglianza e cose del genere. Tu non hai nel camper? Non faccio nulla, non faccio niente. Mario, l'avete sentito? A chi? A Mario. Sì, a Mario l'ho sentito tempo fa, di sfuggita, saluta, chiede un controllo e basta. Non lo sento spesso. Vediamo Gianfranco, avanti, se lo ascolta lui, qualche volta se l'ha ascoltato, Mario. No, onestamente no, non so neanche chi sia. O perlomeno non ci siamo mai sentiti. Riprendi tu, Robè, io ho perduto il conto di chi c'era, perché molti sono entrati e sono in bianco, vedete? Venga, vediamo se c'è Natalino, se era allontanato, se c'è ancora. Avanti Natalino, ci sei. Claudio Spalviero, vediamo se c'è, sta cucinando la toppetta del porcetto avanzato da ieri. Luigi, mi pare che siamo rimasti noi, tu, Gianfranco, Carlo forse si è allontanato anche lui. Aspetta, facciamo un ripilo. Carlo, ci sei? Sì, ci sono. Eugenio lo sento, se abbassa molto lo squelch, ma lo sento pio. Domani, se ho tempo, provo a salire sul tetto e la giro, la metto con la trapolarizzazione, vediamo se riesco ad arrivare anch'io a Porto Torres, Sorso, quella zona che li sento troppo bassi. Non so se l'hai ascoltato, ci sei riuscito a girare a tirarlo fuori? No, non lo sento, no. Assolutamente, zero. Vabbè, domani c'è per a cambiare la polarizzazione dell'antenna, perché ce l'hai in orizzontale. E dimmi un po', Carlo, che piano sei tu? L'antenna che piano ce l'hai? L'antenna è sul tetto, è un palazzo da 6 piani. Quindi sei molto aperto per Porto Torres, dovresti vedere il mare, no? Io a voglia, vedo tutto, vedo l'Asinara, anche Porto Torres qualcosa riesco a vedere. Per cui se tu ti piazzi l'antenna in verticale, guai, arrivi fortissimo. Anni la giro, tanto devo mollare solo 4 dadini, e quindi la giro, magari la sollevo anche un pochettino e la metto in verticale, vediamo com'è, se migliora qualcosa. Qua tu sei 9.35, sei a bomba, ma siamo vicini, non c'è problema. Esattamente, tempo permettendo, Non lo so se il tempo permette, perché ho visto le previsioni, forse se riesci a trovare qualche buco di coso, di chiaro, che non piova. E oggi ha lavorato. Ragazzi, oggi no, perché no, sono ancora malattia, rientro in ritroscio, capito? Ma mi ascolta, ma per cosa? Per vedere le previsioni? Per sapere le previsioni? No, ho chiesto così, devo le cose, ma sapere un'influenza. Allora, bisogna stare attenti in questo periodo, perché io ce l'avevo là un po' intasata, raschiata già da un po'. Ok, vediamo Gianfranco, avanti a te. Sento io, vabbè, anche io ho mal di gola, un leggero raffreddore da 3-4 giorni, prima mia figlia, poi mio figlio e adesso io, però è roba leggera, e mia figlia mi ha detto che a scuola erano tutti così. Adesso i bambini, bisogna stare attenti perché se ne piccoli sono tutti. No, sono grandi, mia figlia ha le superiori al terzo anno, quindi già sono grandi. Non sono in età scolare, diciamo, piccolini, no, perché succede che quando sono all'asilo, all'elementare, ne prende uno e se lo porta per tutti. Sì, quello è vero. No, loro già sono grandi, quindi. Però è in giro questa piccola influenza, diciamo, che prende le vie respiratorie e fa un po' di mal di gola, che raschia qualche giorno. Io sono ancora così. Ma tu stai lavorando, Carlo? Stamattina ho fatto il turno di mattina, quindi pomeriggio libero, domani c'ho il riposo. Sì, più o meno come Eugenio. Lui è nel campo marinaresco, tu nel campo aeronautico. Allora, bisogna regolarla questa antenna, così ci sentiamo magari. Sentito, non riesce a sentirmi, a me anche Pio, non ho capito, se io lo sento molto basso, però è incomprensibile. Ha detto che si regola l'antenna, oggi è così, visto che siete nello stesso campo, tu marinaio e lui aeronautico, così magari riuscite a parlarvi e magari scambiare qualche conversazione sul vostro lavoro. Ciao Mirko, ben sentito. Veramente ti sentiamo come dovessi. Ok, in compagnia mia, Eugenio, Carlo, Gianfranco, poi c'era Claudio Spalviero, Antonio che in Corrix, c'era un attimo Natalino. Comunque ti rilancio a Carlo e poi ti farà girare. Avanti Carlo per Mirko. Buonasera Mirko, Alghero, Carlo qua, qui a Cassassari, zona Lunesole. Buonasera, ben sentito. Vediamo se ascolti a Eugenio. Eugenio, avanti per Mirko. Ciao Mirko, buonasera, Eugenio Apollo Torres, buonasera, se mi ascolti cambio. Anche io, un po' portatore, sono un po' scomoda, io sono piccolino come al solito. Fai Mirko, io e Claudio probabilmente ti dovremmo arrivare meglio degli altri. Non ho capito cosa mi ha detto, perché è in mezzo al QRM, mi arriva a Santiago 1 lui a me. Se ne riesco a... molte volte non capisco cosa ho detto. Se ti ascolto a Pio, però ti tira fuori Santiago, cos'hai detto? 3-4, quanto ha dato di Santiago, Mirko, per Eugenio il portatore? Santiago 3, ecco, riesci a tirarlo fuori Santiago 3, magari riuscisci a segnarti i segnali Santiago 3, qua QRM di media 5 e 6, per cui tutto quello che c'è sotto vuol dire che l'antenna non sta funzionando. La manto va a tirare fuori molta roba, però porta un po' di sporcizia. Ok, vediamo Gianfranco di nuovo, sei rientrato? Sì, sono rientrato, ma devo momentaneamente lasciare perché mi stanno chiamando per un'altra cosa. Buonasera a tutti, a più tardi magari se ci siete ancora. Riprendi tu e fai girare robe. Anche io tra poco devo notare 10 minuti, devo fare cosa. Ciao Gianfranco, dai, se coincide ci sentiamo dopo. Ti rilancio Eugenio e Mirko per i saluti e Carlo. Vai, prima Eugenio, poi Mirko, poi Carlo. Ciao Gianfranco, ci sentiamo più tardi, dai, già siamo qua. E comunque è una soddisfazione per me, io non sono mai arrivato all'Alghero. Santiago 3-4 vuol dire che sta andando bene. Però aspetta, vediamo un attimo, scusate. Ok, io sto uscendo a 4 fasse, ancora non ho scaldato bene perché questo è regolato a 10, quindi va benissimo. Riprendi Mirko, vai per i saluti a Gianfranco. Vai Carlo per i saluti a Gianfranco. Ciao Gianfranco, ci sentiamo alle prossime, magari più tardi, e buona serata. E niente, volevo chiedere a Mirko se mi conferma, se mi sente lì ad Alghero e quanto gli arrivo di Santiago, radio, insomma. Ok, io ti sento lo stesso, Santiago di 6 e la radio è un po' bassa, però riesco a capire sopra il QRM, insomma, che a me mi sta arrivando 5-6 lo stesso. Io rispetto al solito ti sento un po' più bassino Mirko, la radio ha migliorato tantissimo, sei quasi 9, prima lo superavi 9, e però la radio è migliorata, col microfono più potente, più amplificato, ti sento Santiago 8 quasi 9 e radio più 5 pulita. Ma là c'è un, vuoi mettere una stufetta, un amplificatore per migliorare il segnale o che cosa? Non capisco. Ah no, pensavo stessi parlando di cosa, poi ho detto, ormai usci lo stupio per un lineare, normalmente si guarda l'analizzatore di spettro. Ok, ma tu c'hai anche apparecchiature quindi di laboratorio. Complimenti, dai. Buono a sapersi, quindi oltre al falegname fai per passione radiotecnico. Dai. Ok, di nuovo Eugenio, avanti a te mai. Io dire a Claudio di mettere su una bella antenna, e io che non avevo sentito anch'io, che scambiamo quattro chiacchiere anche con lui. Ma Claudio o Carlo, non ho capito. Quello che vola, l'aeronautica. Carlo si chiama, non Claudio. Claudio Spalmiero sta girando il porcetto, esce a vedere se c'è. Avanti Claudio. Certo, diciamo che vi sta ascoltando. Secondo me. Chihuahua, non Claudio. Se lo chiami Chihuahua ti rispondi subito. Chihuahua, no, sono qua, vabbè, non io volevo, vi sto ascoltando, se gira il porcetto. No Giuliano, mi sto ascoltando, lo sai, io non è che entro sempre, no? State parlando di cose per me sono tabù, quindi continuate pure, io già vi ascolto volentieri. Ciao anche a Mirko, buonasera, ben ascoltato, se mi ascolti Gappa. Molto bene, non va benissimo la grande, dai Robe, riprendi tu e fai girare, rimandi in ascolto, non io voglio farla. Sì, adesso facciamo rientrare a Carlo, avanti Carlo a te il mic. Sì, ho sentito prima Mirko che mi ha insomma dato un po' di controlli, va bene, quindi spero domani se il tempo è clemente che mi dà almeno un'oretta di buco, tanto penso che in pochi minuti salgo, svitto, posiziono e poi così domani sera abbia attento un po' con i controlli e vediamo un po' se migliora la situazione allontanandomi, perché con i DX vado bene, addirittura l'altro giorno sentivo segnali dall'Australia, gente che parlava dagli Stati Uniti, perché con quella polarizzazione con i DX va molto bene, invece in locale ho difficoltà, magari non dico a Sassari ma fuori Sassari. Sì, infatti quelle antenne lì hanno lo skip molto basso, per cui riesce a fare lunghe distanze, in vicino magari a 10 km c'è difficoltà, 10-15 km come può essere Porto Torres. Ok, vediamo un po' se qualcuno vuole entrare su 10, avanti, se no riprendi tu di nuovo Eugenio. Non c'è entrato Mario, è uno di Porto Torres, capito? È un vecchio GB che abita a Bologna, adesso abita qua a Porto Torres e sta piazzando, gli ho dato una lamiera per potersi piazzare un'antenna sul carrozzino, giusto per non stare sempre in macchina, per piazzare tutto e vuol anche da casa, però evidentemente non ha piazzato ancora niente, dai, va bene. Riprenditela Mirko di Alghero. Mirko, a te il mic. Questo è Carlo che c'ha di Polo. Hai sentito Carlo? Sì, ho sentito Mirko, forse che chiedeva se ho un di Polo. Sì, il mio è un di Polo. Si è alimentato al centro o all'estremità, ti sta chiedendo? Alimentato al centro. Ma tu è tipo una V, l'hai messo tipo V invertita o proprio in orizzontale? No, è proprio in orizzontale, non si può mettere diciamo a V invertita, e la posizione è quella fissa. Perché Barracuda lui stava usando la V invertita invece di Polo. Ok, va benissimo allora, dai. Se ti ascolta l'Alghero è già un buon segno, dai. Così considerando che c'è in orizzontale. Sì, esatto. Vai pure Mirko se sei copiato. Ok, allora buona pizza, buon tutto, dai, ci sentiamo alla prossima. Ciao Mirko, per i saluti prima Eugenio e poi Carlo. Vai Eugenio. Ciao Mirko, ben sentito, dai. Per la prima, già ci sentiremo in altre occasioni. Dai, buona pizzata, ci sentiamo, ciao. Vai Carlo. Ciao Mirko, ci sentiamo alle prossime. Avanti Roberto. Ma tu Carlo, senti Eugenio, lui non ti sente. Ah vabbè, avete due cose diverse, dai, è giusto così. Lo sento ma molto basso, perché c'è oggi anche abbastanza QRM, quindi lo T tiro fuori a volte un po' chiaro, a volte un po' meno, e a fatica però. Sì, allora non c'è problema, dai, piano piano adesso si sistemano le cose, se metti questa antenna in posizione più idonea, diciamo, per farti ascoltare anche lui, più ci la sentirti meglio. Ok, un attimino di bianco, vediamo se c'è qualcuno, se no riprendi tu. Sì, stavo dicendo, lui a me comunque mi sente, sì. Sì, piccolino ti sente, c'è un po' di QRM, mi sta dicendo, però già ti ascolto. Ah, vabbè, ancora l'apparato caldo, sta uscendo... Negativo, non lo sento più adesso. Si sta iniziando ad aumentare, magari come aumentano i watt dell'apparato riesce a sentirmi un po' di più. Sì, piano piano vediamo un pochettino. Ma questo Mario vicino a te che trasmette a Porto Torres oggi? No, negativo, negativo. Non è vicino a me, è per lui, è Porto Torres, Porto Torres, io sono leggermente più fuori, capito? Ma questo Mario, siccome c'erano due di Porto Torres, è quello vicino al faro, quello lì è? No, quello è Claudio. Ma quello non è più entrato, non l'ho più sentito da tanto. Quello è Claudio, anch'io è un po' non lo sento. Ma non è sempre su 10 che c'è sempre gente, dalle 6:30 in poi c'è gente, fa chiamata. Ok, però non l'ho più sentito. E poi non si chiama neanche Claudio, lui c'ha un altro nome, così, confermo. No, si chiama Claudio. Allora è Mario che non si chiama Mario, ce n'era uno di Porto Torres che c'ha un altro nome. No, no, Mario quello che conosco io si chiama Mario. Ma perché ce n'era... E chi è questo Gianni di Porto Torres allora? Gianni. Gianni di Porto Torres. O Gianluca. O Gianluca, non lo so, però si fa chiamare con un altro nome. No, è la prima cosa che sento. La prima cosa che sento veramente. Vabbè, a Porto Torres ci siamo io, Gianluca, Claudio e adesso Mario, siamo in quattro. Anzi, e poi c'è uno che è entrato, che si è affiattato tutto, però non l'ho più sentito, che è sceriffo, Antonio Sceriffo. A meno che non sia quello che si fa chiamare Antonio, però c'è un altro nome. No, Antonio lo conosco, si chiama Antonio. Non lo so, vabbè, la sto confondendo io, probabilmente. Ok, Carlo, a te il mic. Sì, purtroppo Eugenio, il segnale va e viene, non riesco a capire molto, e quindi niente, non so neanche cos'altro aggiungere. Aspettiamo domani, speriamo bene che il tempo mi dia giusto una mezz'oretta, penso riesco a regolare tutto. Dai, io mi devo lavorare qualche minuto, magari ci sentiamo dopo, purtroppo voi tra di voi non vi sentite, dai, se fate pure X, non lo so, io devo lavorarmi 10 minuti, poi ritorno, dai. Ok, non è nessun problema Roberto, anche io faccio un po' di QRX, saluto Eugenio se mi sente, magari ci sentiamo in condizioni migliori. Ehi, a dopo Mario. Se mi ascolti Carlo, dai, ci sentiamo più tardi, che mi sto allontanando, intanto non riusciamo a parlare, dai, ciao! Oh Milo, ciao! Cornacchione! Lazzo Michelone, buonasera! Allora, che fa lì? Beh, Chihuahua. Ora, qua sono. Di che andate ce ne so? Ah, c'è uno che mi ascolto che mi ha detto Cornacchione, chissà che è. Non ho riconosciuto la voce. Non l'ho sentito, mi sono fermato un attimo io. Allora, cosa hai fatto? Vabbè, Lumin? Ci dovrebbe essere anche Carlo, mi sa tanto. Non lo so. No, niente, eravamo a casa, mia figlia stava lavorando. Perché eravamo le 11 a casa, 11:30. No, non ho fatto niente oggi, non dovevo andare. Era un giorno piovendo, freddo, non siamo rimasti a casa al calduccio. No, ci siamo mascherati. Boh, anzi, ho un vicinetto a mascherarmi. Cosa entra? Cosa c'è? Bisogna tenerle vivere tra i fiori. Non sono mai andato io da nessuna parte, né Halloween né Bingo Bongo. C'è una lì che non riesce a fare i segazzardi. Ma ti non muscolo più sentito. Sì, è entrato Tino a salutare. cantiere è incasinato perso, tra il lavoro normale, tutte le cose che pure si mette a fare a casa, fuori casa, non ce n'è tempo, no? Sono finiti i tempi grassi. Poi a chi vita c'è solo una cosa che però bisogna uscire, divertirsi, spaccarsi fin quanto è possibile. Tanto siamo in passaggio. Sì, adesso lui è appaccato, non ti preoccupare. Non mandi schiena in questi giorni, non sto cazzo di tempo. Non riesco a fare niente, cioè rasarmi tutto il prato, pulirmi tutto fuori, sta sempre piovendo, cosa fai? Sto dicendo, ma tua figlia c'è sempre lì a Altebrec. Altebrec? La figlia conto suo già da 3 anni. Ma qua c'è la pizzeria, qua c'è la pizzeria. Il mare, in Piazza Italia, sempre. Ah, vabbè, io sono rimasto ancora al Altebrec lì. No, no. Non è più dai vecchio, no? Oramai è tutto breccato, eh. Ma comunque il locale c'è sempre, sì. Sì, ma non è più come prima, è calato tantissimo. È calato tantissimo, il Covid, il Molino, lo fanno fare più musica al vivo, avranno avuto preso una denuncia, un casino, è successo l'estate. Lascia perdere. Vabbè. C'è aperto il bar in Piazza Italia, così? Sì, già da 3 anni. Ah, non lo sapevo, non lo sapevo. E si conferma, conferma, si conferma. Ma la bella vita al bar, mamma mia. Mi ci vie, cosa vera. Io già le mento, grazie. E vabbè. Quello ha scelto lei, ha studiato per comprare, quindi già va bene, già va bene. Cosa tu chiedi? Cosa tu chiedi io? Vabbè, perché? Come mai mi sei calato il segnale? Sono problemi tuoi, ho problemi, io ho sempre bene, sto uscendo, non l'ho toccato. Lo strumento mi indica sempre gli stessi watt, 20 watt, e sto uscendo sempre. No, c'è stato un secondo dove hai un po' saturato e poi vabbè, è tornato al mano. E c'è un vero che è importante, dove mi seguire, io non ho toccato niente oggi. Attento Carlo, mi ascolti? Ma non siamo andati tutti via perché? Non lo so, non lo sento io a Carlo. Lui sente a me ma io non sento a lui. No? No, non c'è, no. Già lo sento io. 9:20 qua. Oh, via. Che sono? Quasi. 7:30. Ora leggere l'antibiotico. Mamma mia. Non stai prendendo un al giorno. Due, uno la mattina alle 9 e l'altro alle 7:30 la sera. Attenzione, cornacchione, cornacchione, aiuto, finite i baracchini, dai. Ma vedi che ti ha detto cornacchione? Aveva già la gente, poco fa il tuo veloce non l'avevo riconosciuto. Ero lontano, aspetta che siamo alla radio. Papa di tutto. E beh, Eugenio, buonasera. Ciao Cla. No, ero lontano, stavo parlando con mamma. Ho sentito Eugenio che stava cornacchiando e niente, gliel'ho buttata lì. Ti piace la mia voce? Di più. Infatti lui sta sempre cornacchiando, è per quello che... No, mi ha detto Eugenio che mi stava sentendo male. Tutto bene, mi ascolti? Io sono con quello piccolino, mi fai saltare il birichino. Allora genio, perché il colpo di botte anche nel buccio, qualcuno vicino a te. Metti, non hai trovato niente su internet? Guarda, per essere sincero non sono entrato perché stavo cercando di scaricarmi un programma per farmi così qualche musichetta. Niente di che, non sono entrato. Sì, dimmi. Quindi viaggiamo già sul campo. Diciamo che questa settimana è andata a buca. È andata a buca perché il tempo era brutto, mio figlio doveva giocare a Oristano, poi la domenica dovevo uscire, quindi volevo andare infatti in camper, ma per dire questa settimana lì, solo dovevo uscire, dovevo fare la settimana. cornici, tra una cosa e l'altra, è rimasto parcheggiato. Vabbè, ma già avrò modo di riuscire anche più avanti. Ok. Ma dopo lo fa caldo, ma più sentito un attimo muscolo. Eravamo un po' senza sentirci. Sto proprio una maniera dall'altra, ogni tanto già ci ascoltiamo anche via WhatsApp. Infatti ha giudizio, ci siamo sentiti ieri, è entrata a salutare. E credo domani, grazie, non lo so, non ti do farò la sicura perché mi è venuto da fare un po' da fare domani, devo cambiare le gomme della macchina di Marise e poi devo andare a casa di mio padre a cambiare il rubinetto. Volevo scendere dal Walter, però non lo so, non ti do, cioè non ti do cosa sicura. Guarda, se c'è qualche 60, che la sia messo male male. Se me lo vende, dico un po', cazzo, ma trovo manco uno, porca miseria, avevo procurato Eugenio, adesso sono rimasto con uno solo, adesso ho altre due radio, Kenwood, e sono tutte e due senza microfono, va. Eugenio, vedi che lo tu. Se me l'hai giocato io, non lo fa nuovo. Scherzando, va. Andare, esce a vedere, che l'ho tenuto acceso tutto il giorno, vedere se dobbiamo accordare. Ah, dovrebbe andare bene, dai. Per la prima volta in vita mia riesco decentemente, no? Adesso c'è la coppiata vincente di Manioga. Hai visto? Meno male mi hai ascoltato una volta per sempre. Sei un piccolo racchino, dai, ti dico, non è comprare di Galaxy, aspetta che ti faccio fare un bel impianto, ti faccio fare un bel impianto e sei lampato di aereo Galaxy. A me piace il Galaxy, ce l'ho qua, nuovo nuovo. È bello, a me piace. Comunque lo sto vendendo. Guarda, io un Galaxy ce l'avevo nuovo, non so se... No, era di Vanni addirittura, ok, già mi hai capito. Nuovo, frontalino immacolato, l'interno un po' incasinato, non è tolto piede perché si aggiustava per 10 giorni e poi si andava nuovamente in a fangalla. Allora ho preferito comprare questo HR5005 che è un similare del Galaxy e va bene. Ma la radio Galaxy ce l'ho, riesce a vedere la mia di buona finito. Mi hai immacolata veloci, nuova, ve l'ho comprata dentro la scatola, meno di quanto l'hai pagata tu, capito? A 200. L'ho comprata a Sassari tra l'altro, a Sassari, nuova, te la faccio sentire, è una scheggia, solo che uso, sono abituato sempre a sentire questa, a usare questo, capito? Non la vendo, non la venderò mai. Assolutamente, sempre lì da una parte, messa in linea, c'è l'antenna attaccata, comodo, ogni tanto la uso, sono bellissime radio, completissima, è un bellissimo baracchino il Galaxy, molto bello, sia esteticamente che funzionalmente, funziona benissimo, e ripeto, è completo di tutto, c'ha tutte le bande, tutte le tutto, c'ha tutto, va bene. Io lo conosco di che era, ma se c'è il modello base, no? Io sto parlando del Galaxy Pluto. Niente, perfetto, non conosco. Però vabbè, sono anche adesso mi sono un po', diciamo, come si può dire, sono viziato, mi piace usare il Kenwood, devo usare il Kenwood. E come me, una volta ti abitui, io ho un baracchino molto meglio del Galaxy, ho il DAC, adesso lo metto in culo al Galaxy. Ma non mi fa, sono abituato a usare questo, cioè cosa, non me l'ha fottenuta. Sì, ho il base, io già lo sai di chi era, nuovo, addirittura mi ha preso poi, dopo mi sono preso anche il Sadelta Master Plus, dentro l'armadio, non lo uso mai, che è abbinato a quella radio, perché io l'ho abbinato al canale più terzo. E va molto molto bene quella radio, ottimo per la truppa. Andare, no vabbè, io parlavo del brutto, da tutto, quindi diciamo che a parità di cosa ho preso questo 420 a seconda mano, era immacolato in scatola, l'ha acceso e l'aspetto, non gli piaceva il colore. se l'ha rimesso, dentro l'armoire, perché ha la tastiera, i tastini, dove c'è il bip e le varie, che sono verdi, mentre invece dove c'è il frequenzimetro è l'arancione, poco cambia. Sono coglionate quelle, ma sono già arrivati, non le fa assolutamente niente. No, questa è nuova, assolutamente, nuova. Microfono originale, suo, marchetto Galaxy, mai stato toccato, bellissimo. L'ho usato per un bel po', adesso sto usando nuovamente il Kenwood. Gappa, infatti Geni a tu non sei mai fiducia, beh, arrivi quasi 9 qua, arrivi tra l'8 e il 9 e mezzo, diciamo sì, 8 pieno, dai, 7 e mezzo, 8 pieno, 8 e mezzo, complichi positivi a 9, arrivi molto bene, la radio è bellissima, va bene. Sì, chiaro, quando mai ho parlato ad Alghero io, poco fa stavo parlando con Mirko di Alghero, mi ha detto di arrivare con Santiago 3-4 e quando ci sono mai arrivato io ad Alghero questa posizione, non mai. Beh, c'è una radio che spinge, va bene, c'è un'ottima ricezione, poi quella radio è immacolata veramente, è nuova, quella chitarrata di Auseghi era la mia, quindi l'ho fatta a lui perché mi ha fatto la testa a pallone che la voleva, era nuova, quella mai stata usata, mai, era sempre dentro l'armadio. Nuova, proprio nuova, bellissima, mai bucata, bella allineata, bella, perfetta quella radio, hai fatto un grande affare. Poi ho procurato il microfono, quindi c'hai tutto, se ti trovi la colonnina, che è bellina da affiancare, un SP430, che la metti lì, sai quanto è bella. E quindi sì, domani si inizia o sei feri? No, io ho detto no per domani, quindi me l'ho soffreso libera. Poi vabbè, si sono guardati in faccia e mi hanno detto, ma mi sembra brutto infatti lavorare. E fate quello che volete, detto, io non ci vengo. E così è stato. Sì, io no, domani vabbè, non è festivo, però già si può fare. Domenica, lunedì, martedì c'è Bilancur, cioè fate tutta la settimana, cazzo, ammazzendovi, ma per carità. KK, va avanti, genio. E ci avete, mi arrivi, mi è arrivato un messaggio, ci avete chi è, vai, oggi. Voglia, sono affetti gioco, non ho più voglia attivo, cosa devo fare? Voglia. Allora, cosa devi fare? Innanzitutto guardare il mio segnale e poi mi dici quanto sto arrivando. Poi cosa devi fare? Devi romare, visto e considerato che hai un bel mezzo per poterlo fare, vivi come in Roma, ti fai dare l'aiuto economico, non fai più niente, ciccia, non fai più niente, capito? Ci ho pensato. È vero, il mezzo ce l'ho, me lo consente. Ma tu pensa davvero, comunque arrivi Santiago 9:10 qua, la radio va bene, cioè te lo dico, la radio va benissimo, con quel segnale o un segnale 9:10? Bene, pensavo che andava un po' di più, vabbè, non lo sto allineando ancora, sono lontano la mia voglia, però va bene così. Cosa vuoi fare? Dobbiamo ancora soffrire. No, io ti ripeto, ce l'ho un po' fermo, mi rompe, perché ho fatto qualche lavoretta all'interno, ho preso un bel inverter, perché non ce l'aveva, gli ho cambiato il turbo vent perché era ossidato, ma poi non l'ha cambiato Matteo in garanzia, quello che è stato io, però il gruppo stesso, il gruppo interno, non mettere la moto perché problemi di candela, quindi ho avuto un incasinato, quindi l'ho fatto io, ho fatto fare la meccanica, diciamo, ho messo a posto, tutto regolare. Allora sta iniziando a uscire un po' male, è un po' troppo compressa la modulazione. Ma sì, guarda, aspetta. un attimo, guarda. Forse perché ho fatto un passaggio lungo e adesso ho migliorato, guarda, ho raccordato. Sì, adesso ho migliorato. No, vabbè, già Matteo è tranquillo, già lavora bene, andare. Aggiungo adesso in questi giorni becco Tino in campo, così brindiamo e ci conosciamo le persone vicine sul lucro. Guarda, adesso forse ho fatto un pochino di VAT e ha cambiato anche segnale. No, l'ultima volta sono andato era con l'argentiera, infatti io mi sono sentito con Claudio al rientro, però ho passato una nuotata lì, una nuotata un po' burrascosa, nel senso che stava provendo, però poi ci ha dato modo di fare una bella mattinata. Io in libera non ci vado, preferisco andare nei campeggi. In libera ci sarà andato molto poco. A me invece piace andare in libera, però vabbè, il periodo che ero in fine sono andato a Cocorucci e ho fatto 6 giorni lì. Non ho capito. Ma io quando prenderò le ferie o me ne vado a Lisbona, adesso me ne vado a Mont Saint-Michel, devo vedere per forza Mont Saint-Michel col camper. Vabbè, tu sei abituato a andare così, io ho voglia di girarmi un po' questi posti e conoscere più luoghi possibile, poi si vedrà, sto la facendo. Non mi portate a me, non prendo posto io. Ma c'è un dragone dietro, però, se ti interessa. Ehi, sotto, mi metti le valigie. Io la camera da letto anche davanti. Per te già c'è posto, per te tua moglie eventualmente, non c'è problema. Ma davanti sopra la cabina? No, io ho un letto matrimoniale che si abbassa. Si chiama basculante, è un letto matrimoniale grande e diventa di classe e mezzo. Non voglio ne ha detto. Alleluia, che ho messo grazie a Weber oggi. Mi sono montato nel garage in questo periodo, per carità. Se ti dico che non riesco manco a muovermi, a ci credi. Ragazzi, noi vogliamo un po' in questa poltrona, non riesco a cazzarmi qui. Wow. Altro che andare e tornare. Ui. Ma mi ha mandato un messaggio un amico per un 60, però voglio capire se questo spedisce sì o no. Perché quello che hai trovato tu, anche questo era su subito. Questo deve essere lo stesso. Se spedisce o non spedisce, io non leggo niente perché c'ho la linea che non prende. Cosa? Sì, no. Allora, se era quello che ho visto io non spediva. Dimmi un giro. Ho fatto le cose, l'hai messo nel camper? Sì, te l'ho detto che ero all'argentiera e poi ho parlato con Claudio, con Giulio. Sulla capoccia? Sopra, era già installato. La mia fortuna è stata quella perché non fa troppo che collegare i fili, collegare l'antenna e mettergli un aiutino. C'era anche il coso, ho capito. Andare, bene. E l'antenna molto lunga? Allora, l'originale era corta, gli ho messo la mia, la 200, la 2001 anzi. Addirittura la 2001, ho capito. Ma non è lunga però, Secondo me vai TikTok. Sì, che se ne frega, no, non mi interessa. L'ho messo leggermente inclinata, mi pare che insomma, se tocca l'albero si piega, già non si spiega. Sì, già un grido, un mistilo. E domani la piazza anch'io quella lunga, perché io ho quella originale dal camper, proprio l'originale del camper, che è piccola, sarà 30 cm, e non vado a nessuna parte. Poi, messo a c'era la, se non mi sbaglio era la 600 quella che c'era piazzata, l'ottobre l'ho messo nel 2002, non mi piaceva perché era circa 50 cm, io ho detto, non vado nessuna parte, poi se metti qualche aiutino, deve, insomma, deve anche ricevere, non solo l'aria, capito, quindi... se è piccola non vale, non danno recepi. Sì, è vero, quando io avevo quella lunga, la Midland lunga, parlavo da Porto Torres tranquillamente con Claudio, tu ricordi qua? Oddio, quando c'è il furgone. No, col camper. Claudio, Patisvella. Cadere. Sì, sì, mi ricordo. Ma uscivi bene anche col quando c'avevi la furgonetta. Ciao, Rogerio. Claudio, Brizzella. E beh, cra. Se sento uno basso, non so chi sia. Ciao anche Roberto. Sono io, quello basso. C'è altro che sei basso. Più basso di me, sì. E vabbè, quando eri piccolo eri più basso tu, Tu mi hai superato. È vero, allora. E metti. Ciao, Luca. Cazzo, sei basso tu, la matta te ne scena, ma tu sei Gilo Smith. Che ora devo prendere antibiotico. Ciao, a dopo, a più tardi, tenete i saluti a tutti quanti, ciao. Ehi, ciao G, ciao. Ci si riascolta. Eugenio. Ehi, ciao Lu, buonasera. Ciao, vabbè, ciao. Avanti, Claudio. Ciao, Chihuahua, ci sentiamo alle prossimine, Chihuahua. Prendere antibiotico. Ma non è un pezzo delle supposte. Mi sarebbe piaciuto di più. Ciao a tutti. Io dal 9 mi cla, antibiotico. Dal 9 per 6 giorni, fatto il gonzo. No, è meglio più. Preferisco mantenermi le cose che ho. Sto prendendo solo antinfiammatori e boh, basta, antibiotico non prendo più. Mi sa che amadore è bello una lì. Lascia perdere. KK. No, mi ha mandato un messaggio Franco, capito? Che subito, però non mi sembra la stessa foto che mi hai mandato tu, però io siccome la linea ce l'ho molto lenta, prima di aprirsi agli gibi, bassano i seori, volevo capire da lui se spedisce questo o non spedisce. No, ce n'erano due, uno costava 60 euro ed era un po' usurato, un po' messo male, sinceramente non l'ho preso neanche in considerazione, l'altro costava quello che costava ed era immacolato, però non spedivano entrambi. Ah, entrambi non spedivano? Siete degni, siete a giubile all'aereo, va a comprare un MC60. Boh, era 6 macchine che vanno in capo la gente, certo non spedisce, non glielo compresce. C'era scritto ritiro a mano, quindi è così. Riprende Luca. Beh, dimmi da qui sia a Barri. Là, con quello sono costretto a prendere l'antibiotico perché devo fare quell'intervento. Già lo so, mi sono intestato, infatti, tu sì. Io però ogni volta che faccio la pulizia di vento, non l'hanno sempre capito, antinfiammatorio, non antibiotico. Ma purtroppo lo devo prendere. E poi quegli antibiotici sono giganteschi, veramente siamo su poste. Scusate un attimino, devo uscire fuori a prendere la borsa di scuola a Nicolas. Ehi, non l'hai messa all'aria? No, è dentro la macchina di Maris. Gappa. Mi fa poco, devo muovere pure io sicuramente. Devo uscire il cane, lui stava piovendo, ha fatto poco, ma ero io che già dormito. Sono sul gargaggiotto tutta notte. E adesso vado a casa tra un po'. Così inizio il computer a Roberto. Faccio la pulizia e poi domani do una sussa e metto il sistema operativo. Sperando che lo regga, Ah, problemi gioia. Io quello, se tu lo accendi così com'è funziona. Non ce n'è problema. Io l'ho spento funzionante, capito? Quello messo a parte perché non mi serveva più, non c'avevo linea, capito? Quindi l'ho lasciato così. Quindi non c'è niente quel computer. Tu recupera tutto a tutti i dini. Ehi, qua. Io come gli ho detto a Roberto, speriamo che magari durante il trasporto, siccome quegli hard disk sono di merda, tu pensa che io avevo un hard disk che mi aveva dato Gianpaolo di Porto Torres, no? Senti la scena, ho fatto un cambio, non mi ricordo con che cosa, ma tu mi hai questo hard disk, non mi ricordo lo scambio, vabbè. E io l'ho messo in questo case, perfetto, c'ho tutte le foto dentro. Un giorno lo prendo per cercare delle foto, sono quello dei driver, se non mi ricordo, no? Cazzo, morto. Non andava più, dico là vaga, sta 500 giga. E rimane la stessa cosa quello lì, era un bel fermo quello. Sono almeno un anno fermo. Sono da aprile qua. No, forse neanche un anno, ma sono da aprile io qua e sarà da febbraio di quest'anno, gennaio-febbraio di quest'anno che è fermo, non l'ho più usato, capito? Prima l'ho usato, poi si è, l'ho spento, comunque stava funzionando. Vabbè, comunque, salvo complicazioni, dai, speriamo bene. Ripeto, il mio era perfetto, funzionava benissimo, proprio bene bene. Molto, molto allucinante, giù poi su tutto. Sì, vabbè, quello prima di darglielo si è formato tutto, bucato tutto, capito, Luca?